Carrozza, signori? Com'è delizioso andare sulla carrozzella, sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. A casetta sta il cocchiere, ne ci perde d'occhio, guarda dentro il cocchio, poi sorride, chiude un occhio. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta piano se ne va senza galoppare, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. Il cavallo sa come deve andare, se c'è una coppietta piano se ne va senza galoppare, tanto non c'è fretta. Com'è delizioso andare sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella.